tutti, il programma prevede di occuparsi di orientamenti, nonché di chi si deve assumere le responsabilità dello scetticismo dilagante, di epurazioni e di alcuni aspetti dell'ideologia della prestazione sportiva.